se sono sempre queste. Dovresti averlo notato già. Sono canzoni a metà, un po' come questa qua. Sono sempre queste, dovresti averlo notato già, sono canzoni a metà, è come stare con te. Ma non mi chiedere di farne a meno, che cosa voglio da te e cosa vuoi tu da me. Che cosa scusa, ma mi vuoi bene? Torniamo a casa, va?